Yes, people, questo è Jolly Roger. Yes, people, non c'ho dello. We'll be right back. Yes people, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle ore 17 alle ore 18, Roma, Brancaleone. Oggi l'argomento sarebbe romanità, quindi pensiamo a tutto quello che volemo noi su De Roma e mandiamo subito un pezzo sull'argomento di oggi. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera. Te fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con asmania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, e me nessuna si innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Tanto per cantare, perché me sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto invece naschi un fiore, fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Ed eccoci qua, bentornati in diretta dal Brancaleone. Allora, come avevamo accennato la settimana scorsa, l'argomento di questa puntata era la romanità. Che cos'è per noi essere romani? Che cosa significa nascere, crescere a Roma e sentirsi romani? Luca, per te che cos'è la romanità? Per me romanità è essere una persona che si sfiga tanto, va in giro, fa tante cose, tipo io mi mangio i supplì perché so di Roma, e mi vado al Colosseo perché mi piace un sacco Roma, Roma è la mia città mia del cuore. Fin quando sono nato ho scoperto un sacco di cose, ho visitato Castel Sant'Angelo, ho visto il Tevere, perché Roma è la mia città del cuore, non l'abbandonerò mai. perché a me sfiga tanto e poi mi piace di dai, no! Quando sei arrabbiato, hai rotto il cammo, insomma, piace essere umano. Ecco, beh, abbiamo capito quello che intendeva, ovviamente siamo in diretta, quindi le parolacce, anche no. Se si sa che purtroppo noi nel nostro dialetto, diciamo che... Come... Aspetta che c'è un aiuto dalla regia. Dico, possono capitare, poi specialmente a noi, vabbè, così. Comunque la romanità è anche una bella carbonara, io direi, cioè, dai, è tu. E quindi, a tale proposito, abbiamo pensato che era giusto, insomma, parlare della nostra romanità e soprattutto abbiamo cercato, in questa settimana che ci siamo preparati, diciamo, vogliamo chiamarli luoghi comuni? Vogliamo chiamarle caratteristiche? Non lo so, ma sono romano se... Vediamo un po' anche che cosa abbiamo trovato nel web. Che cosa ci dice Luca? Sei romano quando vai al Colosseo solo per stare lì a dominarlo e magari gli fai una foto. Comunque dominarlo, bello, ci sta. Oppure il Colosseo che domina Roma. Boh, fate un po' voi, insomma. Ogni volta ti sembra più bello. Sei romano e va... Anche se per uguale ogni volta è sempre uguale, ogni volta ti sembra più bello. Ok, quindi il Colosseo sicuramente ce l'avemmo solo noi, giusto? Da nessun'altra parte. Sei romano anche se... Vai allo stadio con la sciarpa fuori dal vetro e durante il tragitto cominci a suonare il clacson ai tifosi che gli incroci per strada. Ecco, perché questo si dà, anche se abbiamo detto che noi non parliamo... Non parliamo di calcio qua dentro. Intanto. Esatto, perché vanno bene tutte le fedi, però in realtà è una caratteristica che ci accomuna a tutti quanti. Ma dici un'altra cosa, sei romano, Luca, se... Se va in giro con la collana d'oro che pensa più da te, al collo che pesa più da te, solo perché vai morto coatto... Beh, noi collana al collo non ce l'avemo, tra di noi coatti non ci sono, però insomma... Ah, è arrivato il nostro amico Marco, lo salutiamo, ma soprattutto ragazzi dobbiamo fare un saluto, perché oggi chi manca? Oggi manca il nostro Piruzzo, che ovviamente noi lo salutiamo con tutto il cuore e ci vediamo venerdì prossimo, caro Piruzzo. Esatto, e visto che stiamo facendo i saluti... ciao Marco, ben arrivato. Direi che è il momento di poter mandare un'altra canzone che ha scelto Luca e che parla sempre di romanità. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti di sta Roma bella. Siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze fammi innamorare, e le ragazze fammi innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio il vino dei castelli che questa zozza società. E se per caso vi è il padron de casa, de botto della chiede la pigione, e noi rispondemo sul padrone, tamo pagate in te pagamo più, tamo pagate in te pagamo più. Che ci rifrega, che ci rimporta, se il nostro vino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio rapido le ligastelli che questa zozza società. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine non so come il baccalà. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace, le magne e pepe non ci te piace di lavorare, portegli un altro litro. E quando il vino mbè, arriva il gozzo mbè, al gargarozzo mbè, ci fa un figozzo mbè, per farla corta, per farla breve, chiamamo l'oste e portaci da bere, da bere, da bere. Ed eccoci qua, di nuovo in diretta. Questa era Ma che ce frega, ma che ce importa, che è Delando Fiorini, e penso che chiunque sia nato e cresciuto a Roma, ma pure chi viene da fuori, la conosce perfettamente a memoria. Chissà quanti noi almeno una volta non l'hanno cantata. Ma torniamo e passiamo il nostro mic al nostro amico Luca. Allora, un'altra cosa, sei romano, sì? Se sei romano, se per chiamare gli amici, rega! Se sei romano usi queste parole con un amico quando sei ritardo. Dai, muovite, sbrigate! Eccoci qua, ecco un po' di detti e di modi di dire romani. Ma stavamo dicendo che appunto è arrivato il nostro amico Marco a trovarci anche oggi, ma soprattutto non abbiamo salutato la nostra guest star di questa settimana, che è... Donna! Bene, perché ovviamente manca Pietruzzo e ci è venuto a trovare anche Donna. Va bene, possiamo continuare. Vuoi dire qualcos'altro, Luca? Perché per cosa significa per te essere romano? No, può bastare anche così, mandiamo un pezzo. Ok, d'accordo. E quindi il prossimo pezzo che ha sempre portato Luca, e poi ritorniamo con le sue rubriche, immancabili rubriche di Luca di tutti i venerdì, la vuoi mandare te la canzone? Roma non fa la stupida stasera. Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fai e di sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che quasi primavera, mannali meglio grilli per fa cri cri. Prestemi il ponentino, più malandrino che c'hai. Roma, reggemi il moccolo stasera. Le stelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che quasi primavera, mandali meglio grilli e fa cri cri. Prestemere ponentino, più malandrino che c'hai, Roma, reggemere moccolo stasera. Roma, non fa la stupida stasera. Siamo di nuovo tornati, ovviamente mentre passa la musica qui nelle retrovie compare gente, arrivano amici. E chi è arrivato? È arrivato il nostro amico Lugone. Luca, vieni a fare un gran saluto. Ecco Lugone. Dobbo aiuto. Oh, il suo solito saluto non poteva mancare anche questo venerdì. E con chi è venuto? È venuto con Federico. Caro Fede, una buonasera a te. Perfetto, noi ovviamente abbiamo passato Roma non fa la stupida stasera, sempre Lando Fiorini, e come dicevamo, almeno una volta anche questa qualcuno di noi l'ha cantata. Ma adesso passiamo alla rubrica di Luchino. Offerte tigre, Pepsi a 99 centesimi, Pringles a 1,99 centesimi, Oreo a 2,50 centesimi. Passiamo un piccolo pezzo e poi torniamo con le battute. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Ere te verede serve, ere te verede serve da cintura. San Pietro del Campidoglio da lettiera. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma a prima sera. Gira se la vuoi gira, canta se la vuoi canta. Trastevere da quando t'ho lasciato. C'avevo in petto cuore, c'avevo in petto cuore, l'ho perduto. Dimmelo bello sì, l'ha ritrovato. Trastevere da quando t'ho lasciato. Gira se la vuoi gira, canta se la vuoi canta. De qua della dara fiume, de qua della dara fiume c'è la stella. E tu non puoi guardarla, e tu non puoi guardarla, tanto brilla. E questa è Roma mia bella, de qua della dara fiume, de qua della dara fiume c'è una stella. Gira se la vuoi gira, canta se la vuoi canta. Bella casetta mia, bella casetta mia Trasteverina, e gira intorno al fiume, e gira intorno al fiume, te in corona. E tutta la reperata te si inchina, bella casetta mia, bella casetta mia, trasterina. Gira se la vuoi, gira, canta se la vuoi, canta. Roma che la più bella, Roma che la più bella, sei del mondo. Io penso sto stornello, io penso sto stornello e te lo mando. Tu me parli d'amore, io da rispondo. Roma che la più bella, Roma che la più bella, sei del mondo. Gira se la vuoi, gira, canta se la vuoi, canta. Ed eccoci tornati in diretta. Ma se parliamo di romanità, noi non possiamo chiedere a Lucone di non dirci una delle sue perle. Vieni un po', Luco. Oh, so de Roma! Eccolo qua, chi meglio di lui non può rappresentare la romanità. Ma continuiamo con la rubrica che tutti attendiamo il venerdì, le battute di Luchino. Come volano i fazzoletti? Col tempo. È buio pesto? No, è buio sugo. Un prosciutto dice all'altro, basta, vado a letto, sono cotto. E ecco qua, anche quest'oggi con la rubrica di Luca. E... vuoi aggiungere qualcos'altro o passiamo il mic al tuo amico Matteo? Passiamo il mic ai due fanciulli, Matteo e Marco. Ah, ok, ormai sono diventati un'unica entità. Va benissimo. Per noi va bene, per voi va bene? Sì. Ok. Matti. Io parlo della romanità. Allora, no, la romanità è una... Allora, aspettate un attimo. No, no. Matteo, ci vuoi salutare? Ciao a tutti, sono Matteo, buonasera a tutti. Ok, Matti. Allora, la romanità, cos'è per te? La romanità per me è una bella città. E una città... romanità, ma molto, molto bella, chiara, perché romanità... Ma questa è Roma, no, che è molto bella. No, romanità è... tanta gente a romanità, chiara, tanta gente. Ma pure fuori Roma o solo a Roma c'abbiamo la romanità? Fuori Roma. Pure fuori Roma? Ah, però, senti, che cosa ti piace a te di Roma? Mi faccio una passeggiata con papà e mamma a vedere tanti negozi. Oh, perché se sei romano, una delle tante cose che si possono fare, ovviamente, non lo trovo più perché avevamo trovato delle frasi, lo ammetto, ma ora le abbiamo perse, ma ovviamente se sei romano almeno una volta... sei andato a fare una passeggiata a Via del Corso. Ma hai mai comprato qualcosa tu a Via del Corso? No, perché? No, perché niente, cara, ma niente. Perché i negozi a Via del Corso sono troppo costosi e sono solo per i cinesi, giusto? Sì, esatto. Esatto. E pure Alice, tu compri roba a Via del Corso? Sì. Ma ti devi avvicinare. Sì. E che hai comprato a Via del Corso? Un sacco di cose, tipo la carta igienica. Oh, esatto, perché a Via del Corso mica ci stanno solo i negozi quelli costosi, ma ci stanno pure i negozi che vendono la carta igienica, giusto? Tipo ci sta il supermercato. Pure il supermercato. Tu lo sapevi che a via del corso c'era il supermercato? Che bene, tipo Lidl Market. Ah, ok. Quindi, buono a sapersi. Se non lo sapevate, adesso andate a via del corso e troverete il supermercato, l'Hydro Market che vende la carta igienica. Ma Matteo, che altro volevi dire sulla romanità? Che significa per te essere romano? Che romanità, perché la romanità, perché e la tangente a Romita, chiara, perché la tangente a Romita, chiara. Ok, ma ad esempio, se sei romano? Come sei romano? Se quando stai nella tua città ti metti del tubacco, del traffico, delle dell'immigrazione e dell'immigrazione, e poi quando vai fuori invece vuoi te la dire. Te la diri, perché noi se la diramo, sì, ma sì, chiaro, sì, sì. Quando vai in giro tu lo dici di essere romano? No, come no? Sì, beh, vedi un po'. Oh, adesso direi che possiamo passare il tuo primo pezzo? Che sì. Ne pensi? Sì. D'accordo? O vuoi aggiungere altro? Meglio un pezzo dopo un altro, questa cosa. Va benissimo. Allora, lo vuoi mandare tu il tuo primo pezzo? Io... Quattro sei... Ah, no. Che ho... A quattro sei... No. A Ponte... Molillo. Molillo. Ponte Mollo. Mollo. Ponte Mollo, sei il ponte più vecchio di Roma. Ci fosse stata una persona, dall'uomo della strada all'ultimo poeta, che non ci avesse speso una parola. In quanto a me, sto ponte è mio fratello, se sono cresciuto sotto a Ponte Mollo. Ponte Mollo, non senti più le rode del caretto, non vedi la criniera del cavallo che libera giocava insieme al vento. Non ti ricordi quando il luminaro vedenne rosso vivo dell'amore finito sulla lama di cortello, smorzò tutti i lumi paiutallo. Ponte Mollo, io sono romano figlio del Fiumarolo, sul fiume posso dire che ci sono nato e me ci cullerò fino a che Mollo. L'unica cosa che posseggo al mondo sta barca ereditata da mio nonno e una ragazza che mi gira attorno. Stasera io c'ho il primo appuntamento e se lo vuoi sapere chi me va bene sopra la barca io c'ho scritto il nome, così lo puoi vedere specchiare sul fiume. Ponte Mollo, io sono romano figlio del Fiumarolo, sul fiume posso dire che ci sono nato e me ci cullerò fino a che morò. Se mamma mi vedesse sto momento, Anna sul fiume tinto dal tramonto, lei capirebbe quanto sono contento. Ponte Mollo, io sono romano figlio del fiume Arolo, sul fiume posso dire che ci sono nato e me ci cullerò fino a che moro. Eccoci di qua, di nuovo in onda. Intanto il Branca si anima di gente e di persone che fanno prove, cantano. Ma torniamo al nostro amico Matteo. Cosa ci vuoi dire? O meglio, cosa vuoi domandare? Marco, a te piace la romanità? Cos'è la romanità tu? Marco, cos'è per te la romanità o l'essere romano? Avvicinati. Gran bella domanda, innanzitutto, vabbè, ciao a tutti, no, è una gran bella, una bella domanda. L'abbiamo colto in contropiede, non gli avevamo detto, però è così, è il bello della diretta. Lui me l'ha accennato in realtà. Quindi è venuto impreparato? No, però comunque, no, per me, insomma, essere umano, ad esempio andare, no, guardarsi il derby, no, la domenica, no, allo stadio, cioè... pure fasse qualche passeggiata al centro, insomma... è vero, come dagli contro, come dagli torto a Marco. Ma essere umano, per te proprio, che cos'è? Te ne andresti mai da sta città? Beh, allora, sincero, se ce n'avessi l'occasione, non ci farei un pensiero, sinceramente. Se avessi l'occasione in futuro, insomma, non disdegnerei questa possibilità, ecco. Ci sta, Marco è uno di quelli che dice potrei anche andarmene, anche se molti di noi si lamentiamo, dimo che c'è il traffico, c'è sta lo smog, la città è zozza, però poi alla fine gira che te rigira, dove stiamo? Siamo qua. Siamo qua. Senti, ma sta domanda la vuoi pure fare a qualcun altro, Matte? Andrea, là. E chi è Andrea? Andrea, dalla regia. Chi è Andrea? Lui. Lui, che non vedete, è il nostro amico che ci aiuta dalla regia oggi. Vai, Matti. Per te, cos'è la romania? Cos'è la romanità per me? Per me la romanità è tante cose, da passeggiare in giro per vedere la città, viverla, cucinarla, anche perché a me piace molto anche cucinare i pasti, quindi... Perché diciamolo... Se sei romano, che te mangi? È di tutto, dalla carbonara, la matriciana, la gricia, cacio e pepe, insomma. Diciamo, vabbè sì, anche, però insomma, un po' meno rispetto agli altri piatti. Niente, Luchino va sul semplice. Vabbè, giustamente, un po' più, diciamo, soft rispetto a questi piatti un po' più, come dire, complessi. Un po' più elaborati, che diciamo che andando verso l'estate, insomma, non sono proprio raccomandabili. Assolutamente. Però una carbonara... C'è sta sempre. Sì, sempre. Giusto, Matti? Sì. Qual è il tuo piatto preferito romano? Mimì, la cacio e pepe, Mimì. Oh, e la devi pure cucinare? Sì. Ci vuoi dire la ricetta? Sì. Vai. Io faccio, un giorno vado a fare la cacio e pepe, metto il pinocchino pepe e sale e poi... No, beh. E pecorino, sale e pepe, piano. Oh, e poi con che la fai? Con le mezze maniche? Con i spaghetti? Io me ne cale le volte. Ma voglia, mi sa che stasera mi faccio una bella cacio e pepe. Ma adesso continuiamo. Vuoi portare le tue rubriche, Matti, o passiamo un pezzo? Un pezzo? Un pezzo. Che pezzo portiamo? La Ciumaghella De dire. Ciumagalla dei Trastevere. E dai. Ciumagella, ciumagella de Trastevere, sei l'ottava meraviglia di Roma mia. Se un pittore te volesse pitturare, non saprebbe da che parte incominciare. Ciumagella, ciumagella de Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua a creare sto nul prosul tra d'armonia. Ciumagella, ciumagella di Roma mia, sei una rosa, sei un bigiù, una sciccheria. Ciumagella, tu sei nata ben cantare. Sei una rosa, sei un bigiù, una sciccheria. Ciumagella, ciumagella di Roma mia, se un pittore te volesse pitturare, butta tutti i pennelli e sta a E siamo di nuovo qui in diretta. Allora, Matteo, andiamo con le tue rubriche. Attesissime tutti i venerdì. E mi raccomando, da che cosa vuoi cominciare? Con il meteo. Con il meteo. Tutti con le orecchie aperte, così sappiamo cosa fare nel weekend. Domani è nuvoloso, nemica sole, no piove. Ma domani piove? No! E cosa consigli di fare domani? Io faccio una bella pacciata con un caffè a maneggio. Ma domani o domenica? Domenica. Oh. E domenica? Per sole! E quindi? Usciamo! Dove? Fa una partita a maneggio! Come vede domani? Sì. Quindi sole o nuvola si va sempre al maneggio! E con chi ci vai? Con papà e mamma. E a noi che ci consigli? Una bella partita! Vai al mare! Per andare al mare? Ma domani o domenica? Domani io! Oh, sempre domani! E domenica c'è il sole? Per una bella partita a fuori porta! Quindi andiamo a fare una bella passeggiata al fuori porta! Ma sto fine settimana ci stanno pure le partite? Sì! E che numero di partite è? È l'ultima? O la penultima? Ultima! È l'ultima giornata! Ops, vai! Io dico Milan Salernitana, Inter Milan, Verona Inter, Inter Inter! Vabbè! E a

Se sei, se sei romano, sì? Se sei romano, se hai visto almeno una volta il marchese del Villo, di Albertone, hai usato questa frase perché io so che voi non siete... Perché io so io e voi? Non siete un cavolo. Un cavolo! Perché la nostra amica Liciotta ovviamente è una ragazzetta educata e poi siamo alla radio, anche se la vera frase diceva altro. Ma Alice, per te, cosa vuol dire essere romano? Cos'è la romanità? La romanità per me è essere andare in chiesa. Ah. Ma. Perché? Perché pregare Gesù e per pregare Maria. Perché che nessuno dica che noi romani non siamo dei buoni... cattolici, giusto? Giusto. Giusto. E poi cos'altro è? Poi abbiamo un sacco di chiese a Roma, giusto? Sì. Una grande grande qual è? Quella di San Basilio. La chiesa di San Basilio, in fondo, sì, è grande, è che è grande. Poi abbiamo pure San Pietro. San Pietro. Ti risulta? Sì, mi risulta. Un'altra famosa? Chi? Ah. Il primo maggio dove si va? A San Gio? A San Giovanni. A San Giovanni, perfetto. Poi che altro significa per te essere romana? Per me essere romana significa anche stare in compagnia. Oh, esatto, perché noi romani ci piace stare... In compagnia! Dai! Adesso! In compagnia e stare insieme e a chiacchierare tutti quanti e stare insieme e divertirci, soprattutto, perché il bello è stare insieme sempre, tutta la vita, perché il cuore è nostro e la vita è la vita. Oh, grande Aliciotta! Non lo vedete, ma c'è un applauso qua in diretta. Perfetto, quindi io direi che questa perla della nostra Aliciotta, prima della sua fantastica rubrica, passiamo un altro pezzo. Questa volta chi sono? Gazzelle Roma. Narcos. Presente quelle notti che cammini mezzo assente, lungo Tevere per sempre c'è un lampione che t'accende e che decide dove andare, mentre intorno vedi gente che sta bene, tutta gente che sta male. È una sirena che strilla e c'hai le mani in tasca, gli occhi chiusi ed il cappuccio su. E c'è un amico tuo che ha fatto i soldi e non lo vedi più. E mentre tiri sulla testa e Roma è tutta blu, riesci solo a dire wow. Per tutte le volte che t'ho abbandonato e tutte le sere che sono scappato, andavo lontano ma non me ne andavo. Per tutte le estati che abbiamo scazzato, per ogni momento che m'hai regalato, tutte le notti che m'hai tolto il fiato, per quello che hai preso, per quello che hai dato, per quanto sei stronzo, per quanto ti amo. Ma te ce pensi che non t'ho mai visto tutta quanta? T'ascoltavo sopra i dischi di Gabriella, Roma canta. Figlio di ste strade che me le ricordo spoglie a fine anni 80. 5.000 lire in tasca, in bici, maglia sporca bianca. Io de sta città c'ho sto ricordo fisso, un blocco ad ogni uscita del raccordo. Il primo morto che ho visto, il primo pacco che ho preso, il primo pezzo che ho steso, al primo tiro non gli ho dato peso. torno su sti San Pietrini, ferri de cavallo sotto le mie Air Max. Cerco te ma non trovo la calma, me ne berro un'altra con una sigaretta accesa sulla riva, faccia schiva aspettando quest'autobus arriva. Per tutte le volte che t'ho ricattato e tutte le sere che stavo ubriaco, andavo a Milano ma poi ritornavo. Per tutti quei drammi che abbiamo passato, per ogni lamento che mai consolato, per tutti gli errori che mai perdonato, per quello che hai preso, per quello che hai dato, per quello che hai preso, per quello che hai dato. Per tutte le volte che t'ho abbandonato e tutte le sere che sono scappato, andavo lontano ma non me ne andavo. Per tutte le estate che abbiamo scazzato, per ogni momento che mai regalato, tutte le notti che mai torto il fiato, per quello che hai preso, per quello che hai dato, per quanto sei stronza, per quanto ti amo. Siamo di nuovo qui in diretta e anche oggi siamo verso la fine della nostra puntata, ma come tutti i venerdì non può mancare la rubrica della nostra Licetta. Esatto, giusto. Di bellezza. E mi raccomando, tutti pronti ad ascoltare i suoi consigli che servono per essere sempre più belli, soprattutto in attesa del weekend. Vai! Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di una crema fluida per il corpo che profuma di petali di girasole, quindi è una crema estiva perfetta. Perché adesso stiamo andando incontro alle? Perché adesso stiamo andando incontro all'estate. E quindi dobbiamo essere tutti belli? Profumati, puliti. Quindi mi raccomando, lavatevi, insomma. Comunque, continuiamo. Vai, perché Alice. L'estate... Perché l'estate? Perché l'estate è una... È una stagione che purtroppo in cui puzziamo spesso. È giusto, è come dare contro ad Alice, perché comunque ricordiamoci, parlando sempre di Roma e romanità, se sali sulla metropolitana in piena estate a Roma... Esatto. A gente... Vai Alice! Allora... perfetta per l'estate che sta arrivando. Questa crema è leggera, cioè si assorbe subito e non rimane la pelle appiccicosa. E quindi non ci fa sudare. Ed è molto cremosa e lascia la pelle fresca. Dentro la crema ci sono acqua distillata di petali di girasole, estratto di fiori di girasole, olio di girasole biologico, olio di cocco biologico ed estratto di fiori di cocco. C'è un sacco di roba dentro questa crema! Lo consiglio perché ci sono tutti gli ingredienti buoni che fanno bene, si può comprare al negozio dell'erborario. Ottimo! E dove lo possiamo trovare il negozio dell'erborario? Qui vicino, che tu ci allora, consigli? L'erborario lo potete trovare o a Porta di Roma, oppure lo potete trovare al centro di Roma. Top! Insieme alla carta igienica uno va a Via del Corso e compra... La carta igienica. La crema. La crema. Ma come si chiama? È un'erboristica. Ok, quindi non ha un nome questa crema. Cioè, allora, praticamente l'erborario è l'erboristica. Ok, quindi è proprio il nome della crema, giusto? Oltre che del negozio. Sì. Perfetto, Aliciotta. Grazie mille per i tuoi consigli. Hai un altro consiglio da volerci dare? Sì. Ho una notizia. C'è anche una notizia ATAC. Oh, ecco. Le nostre notizie dell'ATAC dette dalla nostra Aliciotta, che almeno ci tiene informati. Vai. Allora, notiziato che sono stati riaperti i parcheggi della metro B di Sant'Agnese a Nibaliano e il parcheggio della metro A a Conca d'Oro e il parcheggio della metro Laurentina. Infatti, volevo dire questo. Allora, una cosa la volevo dire, infatti. Grazie a tutti il signore dell'ATAC che per tutti, tutti gli operai che lavorano insieme all'ATAC, all'AMA, insieme all'ATAC. Volevo dirvi che praticamente è importante che voi lavorate per questo. Che hanno riaperto i parcheggi. Però vi ringrazio tantissimo di cuore che avete riaperto i parcheggi. Ci ringraziano tutti. Perfetto, grazie Aliciotta che ci tieni sempre informata sulle notizie ATAC, sulle notizie AMA e giustamente ringrazi il lavoro che gli operai fanno tutti i giorni per farci stare meglio e vivere questa città un po' meglio, giusto? Sì. Perfetto, allora adesso siamo alla fine della nostra puntata e anche questo venerdì... Io farei un applauso però anche alla conduttrice. Ecco, questo andava tolto. Ma andiamo avanti. Perfetto, quindi siamo alla fine della puntata. Adesso passeremo al nostro ultimo pezzo, che è... La cucina. La cucina. Ah, ok. La casereccia. Allora scusateci, ma giustamente Alice sta leggendo su un foglio che è stato scritto dal nostro buon Pietro, che ha scritto coi piedi evidentemente, però ci vuole bene lo stesso. È la cucina casereccia? È la cucina casereccia? Di Roma? Radici nel cemento. La canzone è La cucina casereccia di Roma, delle radici nel cemento, che sono sempre stati anche nostri ospiti e salutiamo. Allora, ragazzi, facciamo i nostri saluti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buon fine settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Tutti i venerdì dalle ore 17 alle 18 potete ascoltarci sui nostri podcast www.pirateradio.com Gemini Network. Raga Muffin de Roma nati DJ styling. We know Tom from Jamaica before me Dali. Forse mi spiego meglio quando parlo così. Pane al pane, vino al vino, oh, famosi a capì. Oh, com'è buona la cucina casareccia de Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola ognuno parla come magna dove si trova. E a casa mia è sempre festa. Che ci sia pasta, che ci sia minestra. Mi madre a falla è una maestra. Quando scodella nessuno protesta. E casareccia è genuina. Niente OGM nella mia cucina. Si mangi gnocchi o fettuccina. Il mattarello ha fatto la sfoglia fina. Con mamma e nonna in combination. Alli fornelli ci fanno una session. Soffriggia dritto, soffriggia rovescio. Che quando è ora qua vanno depression. Hai da sentì poi oh quanto è squisito. È pronto l'abbacchio a scottadito. Con le patate al forno bello è servito. Se non ce l'hai fa venire l'appetito. Con la mentuccia la trippa romana. Non ti scorda sporveracce la grana. Basta il patate, basta il lenticchia. Peperoncino cubi un'antichia. È quello buono, è quello che picchia. Pace piano sentirai come fischia. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola ognuno parla come mangiando se trova. Mettici di bucatini alla matriciana. 3 getti cicori a sarti in bocca alla romana. Pensa degli a testa quando c'è la parmigiana. Il trionfo della dieta mediterranea. E la scarola indivia e valeriana. Fino a che carote a maggio la fava romana. Tutta prima scelta vegetariana. Sta in confidenza con la fia dell'ortolana. Carciofi alla giudia con le porpette. La mortadella, la pizza e le rosette. La coratella fritta vuoi mettere. E mille, mille, mille altre ricette. Per carità buono riso alla cantonese. Con lo giamaicano, zucchini, zuppa inglese. L'altro pe cușine nu se sentan ofesi. Ție Roma caput mundi derber paese. O, oh, cum e bona la cușina casa recea de ma. Nu ne plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola ognuno parla come mangiando se trova. O, oh, come bona, o, oh, come bona la cucina casareccia di Roma. O, oh, come bona, o, oh, come bona la cucina casareccia di Roma. O, oh, come bona, o, oh, come bona la cucina casareccia di Roma. O, oh, come bona.